English 24. Buonasera da Marta Cagnola. Giulia Crivelli. Questa sera torniamo negli Stati Uniti. Sentiamo parlare con un accento americano, sentiamo parlare una signora molto famosa in questo periodo e non solo, è molto famosa da un bel po' di tempo negli Stati Uniti. Parliamo della signora Hillary Clinton, che ha cercato di diventare presidente, non c'è riuscita, è diventata segretario di Stato e si sta impegnando su un tema molto delicato che riguarda la cultura, che riguarda la libertà, riguarda anche la politica estera, insomma un tema delicatissimo, internet. Ne ha parlato qualche giorno fa in un discorso che ha creato anche molte perplessità e molti malumori dall'altra parte dell'oceano, soprattutto in Cina. Si sono un po' arrabbiati, ma sentiamo la prima parte di questo discorso. Any of you, or maybe more likely any of our children, can take out the tools that many carry every day and transmit this discussion to billions across the world. Now, in many respects, information has never been so free. There are more ways to spread more ideas to more people than at any moment in history. And even in authoritarian countries, information networks are helping people discover new facts and making governments more accountable. During his visit to China in November, for example, President Obama held a town hall meeting with an online component to highlight the importance of the internet. In response to a question that was sent in over the internet and said that the more freely information flows, the stronger societies become. Eccoci qua, la libertà, l'informazione, la forza delle società, le possibilità che hanno le persone nel mondo. Tutto questo grazie alle nuove tecnologie. Come ha abbordato, come ha avvicinato il problema Hillary Clinton? Hillary forse si sente appunto di un'altra generazione, quindi dice any of you, poi si corregge, dice maybe more likely o forse meglio. Questo more likely è interessante, lo usano molto gli americani, letteralmente vuol dire più facilmente. To be likely è essere facile che capiti, quindi più facilmente any of your children, quindi con tutti questi tools that they carry around, questi strumenti che abbiamo tutti, anch'io qui ho il mio BlackBerry spento per non interferire, poi torno di sopra e ho il mio PC da borsetta che mi serve perché sto per andare a fare una conferenza stampa ed è più comodo per scrivere, insomma tutti strumenti wireless tra l'altro volendo, e quindi appunto con questi, dice la Hillary, potreste transmit this discussion che stiamo facendo proprio adesso in tempo reale across the world. La gente in pratica non è mai stata così libera e può diffondere le idee in tanti modi diversi. Sì, more ways to spread more ideas. Spread, anche qui diffondere, ma si può usare anche, non so, il spread, la marmellata sul toast, anche questo è un verbo molto versatile. Quindi appunto spalmare le idee in un modo in cui non sarebbe than at any moment in history. Quindi siamo in queste condizioni adesso, con naturalmente vantaggi e svantaggi. Questa libertà c'è persino even in authoritarian countries, quindi persino in paesi con regimi autoritari, e questa capacità di internet di diffondere le informazioni has made governments more accountable. Un accountant è un contabile, ma to be accountable vuol dire appunto che qualcuno ti può render conto, ti può chiedere di render conto delle tue azioni. Perciò quando appunto tutto è trasparente, tutti sanno, non so, quanti funzionari cinesi sono in giro con le loro amanti, piuttosto che quante persone sono state giustiziate ogni anno, perché queste informazioni ormai ci sono, e quindi governments are accountable. Infatti non abbiamo detto la Cina a caso, perché lei poi menzionerà la Cina scatenando appunto le reazioni del paese asiatico, ma intanto cita quello che è ora suo amico, prima suo avversario, Barack Obama. Sì, questa è una, io credo ancora, insomma sono una fan di Obama, Obama ci ama, però questa relazione che si è instaurata tra i due ex avversari mi sembra molto leale, e lei quindi appunto lo cita e dice che quando è andato in questo town hall meeting di un authoritarian countries, ha risposto a una domanda that was sent in over the internet. Domanda via internet, la domanda è arrivata a Obama, che ha anche deciso di rispondere. C'è un'ultima espressione in questo estratto, the more, the stronger. The more freely information flows, quindi più liberamente scorre l'informazione, the stronger societies become. Più diventano, è un po' come in italiano, semplicemente qui si usa il comparativo con lo normale inglese, però l'espressione è la stessa che usiamo anche noi. Tutto bello, tutto facile, non è così, lo riconosce Hillary Clinton. We must also recognize that these technologies are not an unmitigated blessing. These tools are also being exploited to undermine human progress and political rights. Just as steel can be used to build hospitals or machine guns, or nuclear power can either energize a city or destroy it, modern information networks and the technologies they support can be harnessed for good or for ill. The same networks that help organize movements for freedom also enable Al-Qaeda to spew hatred and incite violence against the innocent. And technologies with the potential to open up access to government and promote transparency can also be hijacked by governments to crush dissent and deny human rights. Allora, abbiamo sentito i lati positivi di internet anche nei paesi in cui vigono regimi autoritari, ma... Internet è uno strumento, una tecnologia, lo sappiamo, ce lo raccontiamo tutti, soprattutto citando sempre il caso del nucleare. We must also recognize, dobbiamo riconoscere che questi tools, che di cui parlavamo prima, quelli che can spread information across the world, are not an unmitigated blessing. Blessing, benedizione, to bless, benedire, blessing, la benedizione, unmitigated, cioè una benedizione senza se e senza ma, potremmo dire in italiano, e non è proprio così. Ma si possono usare anche per minare, lei dice, il progresso umano. Proprio to undermine, cioè mettere in pericolo, to mine, minare, undermine ancora più forte, proprio mettere in pericolo, e fa il paragone, cosa di cui tra l'altro gli americani sono... ne sanno qualcosa. Just as steel can be used to build hospitals or machine guns. E così come l'acciaio può essere usato per costruire strutture ospedaliere, armare strutture ospedaliere, oppure costruire mitragliatrici, oppure come nuclear power, l'energia elettrica, power, energia, può essere usata per energize, per dare energia a una città, or to destroy it, o per distruggerla, e la tecnologia ovviamente è lo stesso, ha il suo lato buono e quello cattivo. Ad esempio nel caso di Al-Qaeda. Di Al-Qaeda, dice, in tutto sommato è stato, che appunto dicevamo prima, no? Può essere usata to spread knowledge, to spread the word, insomma, poi il Papa ha invitato di recente tutti i suoi ministri a usarla anche per diffondere il culto, però invece ha anche enabled Al-Qaeda to spew hatred, ha anche reso possibile ad Al-Qaeda, organizzazione naturalmente terroristica più famosa e più temuta dagli Stati Uniti, to spew hatred, di diffondere, questo verbo quasi onomatopoetico che dà l'idea proprio di quasi di sputare di odio, di diffondere questo odio attraverso la rete e quindi arrivare a tantissime persone. Tra l'altro utilizza un verbo interessante, technology can be hijacked, e qui insomma c'è quasi un utilizzo molto sottile di questo verbo. Hijacker naturalmente è il dirottatore, e la tecnologia può essere hijacked nel senso che è qualche cosa più che un hacker. Sappiamo che un hacker entra in un programma e magari riesce a bypassare dei firewalls. Se invece dirotti la tecnologia, vuol dire proprio che le cambi la sua destinazione, addirittura la puoi usare to crush dissent. Possono farlo i governi, che naturalmente possono per esempio controllare tutte le nostre telefonate, tutte le nostre email, and deny human rights, e negare quei diritti fondamentali che appunto passano anche ormai per la tecnologia. Gli Stati Uniti sono, dice Hillary Clinton, ovviamente dalla parte dei buoni. Sentiamola. New technologies do not take sides in the struggle for freedom and progress, but the United States does. We stand for a single internet where all of humanity has equal access to knowledge and ideas. And we recognize that the world's information infrastructure will become what we and others make of it. Now, this challenge may be new, but our responsibility to help ensure the free exchange of ideas goes back to the birth of our republic. The words of the First Amendment to our Constitution are carved in 50 tons of Tennessee marble on the front of this building. And every generation of Americans has worked to protect the values etched in that stone. Abbiamo sentito molti discorsi nel nostro English 24, discorsi di presidenti degli Stati Uniti, discorsi in questo caso di un segretario di Stato. È uno schema molto tipico, si presenta il bene e il male. Hillary Clinton citava anche alcuni paesi che facevano parte di questo asse del male, che non è l'asse del male del terrorismo, ma l'asse del male che nega la libertà su internet. Invece gli Stati Uniti si schierano dalla parte del bene. E dice: new technologies do not take sides in the struggle for freedom and progress. Quindi le tecnologie non si schierano, l'abbiamo detto prima, la tecnologia è neutra, anche queste nuove tecnologie. But the United States does. Ma gli Stati Uniti si schierano, nel senso che si schierano a favore del freedom and progress. Quindi è naturalmente, lei vuole che queste tecnologie siano usate for good e non for ill, come aveva detto prima, cioè per il bene e non per il male. We stand è un'espressione che si usa molto negli slogan americani. United we stand. United we stand, in questo caso we stand for a single internet where all of humanity has equal access to knowledge and ideas. Quindi non ci deve essere appunto una internet di serie A, una internet di serie B dove ci sono una serie di cose criptate o magari è più lenta, che poi è la stessa cosa, cioè internet molto lenta è come dire internet meno efficace. No, deve essere uguale, tutti devono avere la stessa possibilità che internet dà di avere accesso alla conoscenza e alle idee. L'abbiamo sentito anche questo in molti discorsi, si riparla della Costituzione. Sì, perché la parola, insomma, libertà è forse la Costituzione americana che ha questi fortissimi richiami alla libertà, al progresso. E quindi dice: this challenge, cioè quella che è relativa a internet, may be new. Effettivamente è nuova, ma our responsibility to ensure free exchange of ideas, our nel senso di americani, beh, quella non è nuova per niente, addirittura goes back, si può retrodatare alla birth of our republic, a quando la nostra repubblica è nata, quindi 1789. Quindi una nuova challenge che però si riferisce a qualcosa che addirittura è inciso nel marmo. È il famoso First Amendment, Freedom of Speech, che è il First Amendment to our Constitution, della Costituzione americana, e che proprio fuori da dove parlava Hillary è carved in 50 tons of Tennessee marble. Questo amendment è stato inciso, to carve vuol dire incidere, in generale usato per la pietra, perché poi è per altri materiali ci sono altri verbi, in 50 tonnellate di marmo del Tennessee, che è evidentemente un po' come dire da noi il marmo di Carrara. E ogni generazione di americani, every generation of Americans, has worked to protect, ha lavorato per proteggere i valori etched in that stone. Quindi di nuovo questa idea che è qualcosa di inciso permanentemente nella pietra. Quindi prima ho usato il verbo to carve, poi etched in the stone. Salutiamo Hillary Clinton, che ha difeso col suo discorso la libertà su internet. Vi ricordiamo il nostro English 24 in edicola. Ringraziamo Peter Bescapè in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.